Il terzo anello, ad alta voce, Guerra e pace, di Lev Tolstoi. Siamo entrati con la lettura scorsa nel pieno ormai delle operazioni di guerra e la situazione è critica per l'armata russa. I francesi, passata Vienna, si stanno dirigendo verso la linea di ritirata di Kutuzov a Snaim. Ora, la sola possibilità per i russi di salvare l'armata sarebbe quella di arrivare a Snaim prima dei francesi, ma la strada dei francesi da Vienna a Snaim è più breve di quella dei russi da Krems a Snaim, e dunque prevenire i francesi con tutta l'armata è del tutto impossibile. Così Kutuzov invia un'avanguardia di 4.000 uomini, guidati da Bagration, con lo scopo di intercettare e trattenere i francesi. E Bagration riesce effettivamente ad arrivare a Hollabrunn, sulla strada da Vienna a Snaim, alcune ore prima dei francesi. E questi, capeggiati da Murat, incontrando l'avanguardia di Bagration, credono che si tratti di tutta l'armata di Kutuzov e, consci della loro superiorità, propongono un armistizio di 3 giorni, dopo i quali sono certi di poter schiacciare l'armata russa. Ma l'inganno dei francesi si risolve a favore dei russi, che con l'armistizio possono guadagnare tempo. La cosa però non sfugge a Napoleone, che appena ricevuto il rapporto di Murat a Schönbrunn si accorge dell'inganno e scrive al principe Murat una lettera inferocita in cui gli nega il diritto di stipulare un armistizio senza un suo espresso ordine. Il fumo del primo colpo non era ancora dileguato che si vide un'altra nuvoletta di fumo e si udì un altro colpo. La battaglia era cominciata. Il principe Andrei voltò il cavallo e galoppò indietro in cerca del principe Bagration. Dietro a sé egli sentiva il cannoneggiamento farsi più fitto e più forte. Certo, i nostri cominciavano a rispondere. Giù nel posto dove erano passati i parlamentari si udirono dei colpi di fucile. «È cominciata. Ci siamo», pensò il principe Andrei, sentendo che il sangue gli affluiva più rapido al cuore. Egli vedeva dappertutto i rapidi movimenti dei soldati che si allineavano e prendevano ciascuno il suo fucile, e su tutti i visi riconosceva la medesima animazione che era nel suo cuore. «È cominciata. Ci siamo. È una cosa terribile e allegra», diceva il viso d'ogni soldato ed ogni ufficiale. Ancora prima di arrivare al trinceramento che si stava costruendo, vide nella luce serale della fosca giornata di autunno dei cavalieri che gli muovevano incontro. Il primo, con un mantello di feltro e il berretto di pelo d'agnello, montava un cavallo bianco. Era il principe Bagration. Il principe Andrei si fermò per aspettarlo, e il principe Bagration trattenne il suo cavallo e, riconosciuto il principe Andrei, gli fece un cenno del capo. Egli seguitava a guardare innanzi a sé, mentre il principe Andrei gli raccontava quello che aveva veduto. L'espressione che diceva «è cominciata, ci siamo» appariva anche sulla vigorosa faccia abbronzata del principe Bagration, con i suoi occhi mezzi chiusi, torbidi, come se non avesse dormito abbastanza. Il principe Bagration, giunto al punto più alto della nostra ala destra, cominciò a scendere giù, dove si sentiva il rombo della fucileria e non si vedeva nulla per il fumo della polvere. Cominciarono a incontrare dei feriti. Uno, con la testa insanguinata, senza berretto, era trascinato sotto braccio da 2 soldati. Rantolava e sputava. Si vedeva che una palla lo aveva colpito in bocca o in gola. Un altro, venuto loro incontro, camminava coraggiosamente da solo, senza fucile, gridando forte e agitando le braccia per il dolore della ferita fresca, dalla quale il sangue gli colava sul cappotto come da una bottiglia. Il suo viso pareva più spaventato che sofferente. Era stato ferito un momento prima. Traversata la strada, cominciarono a scendere per una china scoscesa e sulla china videro alcuni uomini distesi a terra. E poi incontrarono una folla di soldati, fra i quali ce n'erano anche dei non feriti. Tutta l'aria era impregnata del fumo della polvere. I visi dei soldati erano tutti anneriti dalla polvere e animati. Alcuni affondavano le bacchette nei fucili, altri versavano della polvere nel focone o tiravano fuori le cartucce dalla giberna, altri sparavano. Ma su chi sparassero non si poteva vedere, per il fumo della polvere che non era spazzato dal vento. Il comandante del reggimento, un vecchietto magro, debole all'aspetto, con un sorriso simpatico, Con le palpebre che gli cadevano più che a metà sugli occhi di vecchio, dandogli un'aria dolce, si avvicinò al principe Bagration e lo accolse come un padron di casa accoglie un ospite di riguardo. Annunziò al principe Bagration che contro il suo reggimento c'era stato un attacco della cavalleria francese e che, sebbene l'attacco fosse stato respinto, il reggimento aveva perduto più della metà dei suoi uomini. Il colonnello disse che l'attacco era stato respinto, immaginando questo termine militare per definire ciò che era accaduto al suo reggimento. Ma in realtà egli stesso non sapeva che cosa fosse successo in quella mezz'ora alle truppe affidate a lui e non poteva dire con sicurezza se l'attacco fosse stato respinto dal reggimento o il reggimento disfatto dall'attacco. Il principe Bagration chinò il capo per dire che tutto era andato assolutamente come egli desiderava e come si aspettava. Volgendosi all'aiutante di campo, gli diede ordine di far discendere dall'altura i due battaglioni del sesto cacciatori, davanti ai quali erano passati poc'anzi. Il principe Andrei fu però colpito in quell'istante dal cambiamento avvenuto nel viso del principe Bagration. Il suo viso esprimeva quella risolutezza concentrata e soddisfatta dell'uomo che, in una giornata calda, è pronto a gettarsi nell'acqua e sta per prendere lo slancio. Non aveva più né gli occhi torbidi e assonnati, né l'aspetto di chi si finge profondamente assorto. I suoi occhi tondi, duri come quelli d'uno sparviero, guardavano innanzi come ispirati e con un certo disprezzo, evidentemente senza fermarsi su nulla, benché nei suoi movimenti ci fosse la stessa lentezza e misura di prima. Mentre egli parlava, come spinta da una mano invisibile, la cortina di fumo che nascondeva la valletta venne tirata da destra verso sinistra dal vento che si alzava e apparve loro la montagna di rimpetto, coi francesi che vi si muovevano sopra. Tutti gli occhi erano involontariamente fissi su quella colonna francese che si avanzava verso di noi, serpeggiando nelle sporgenze della montagna. Già si vedevano i berretti pelosi dei soldati, già si potevano distinguere gli ufficiali dagli uomini di truppa e si vedeva la loro bandiera palpitare intorno all'asta. Il principe Andrei sentiva che una forza invincibile lo trascinava innanzi e ne provava una grande gioia. Ormai i francesi erano vicini e il principe Andrei, che camminava a fianco di Bagration, già distingueva chiaramente le sciarpe, le spalline rosse e anche i visi dei francesi. A un tratto, in mezzo a loro, esplose un colpo, un secondo, un terzo, e per tutte le file nemiche scompigliate si sparse il fumo e crepitò la fucileria. Alcuni dei nostri uomini caddero. Ma nell'istante in cui echeggiò il primo colpo, Bagration si guardò intorno e gridò «Urrà!». Un grido prolungato di «Urrà!» percorse la nostra linea e, passando davanti a Bagration e passandosi davanti a vicenda, in folla confusa ma allegra e animata, i nostri corsero verso la montagna dietro ai francesi sbaragliati. Lo squadrone dove serviva Rostov ebbe appena il tempo di mettersi in sella, che fu fermato con la faccia al nemico. Di nuovo, come sul ponte del Lens, fra lo squadrone e il nemico non c'era nessuno, e in mezzo a loro non c'era a dividerli che quella terribile linea dell'ignoto e della paura, simile alla linea che separa i vivi dai morti. Tutti gli uomini sentivano questa linea ed erano agitati dal dubbio se avrebbero potuto oltrepassarla o no, e come l'avrebbero oltrepassata. Il colonnello giunse sulla linea, rispose rabbiosamente qualcosa alle domande degli ufficiali e, come un uomo che si ostina disperatamente a fare a modo suo, diede qualche ordine. Nessuno diceva nulla di preciso, ma per lo squadrone corse la notizia dell'attacco e che echeggiò il comando di disporsi per plotoni. Poi sibilarono le sciabole tirate fuori dai foderi, ma ancora nessuno si muoveva. Le truppe del fianco sinistro, fanteria e usseri, sentivano che i comandanti stessi non sapevano che fare, e l'indecisione dei capi si comunicava alle truppe. «Presto, presto», pensava Rostov, sentendo che finalmente era venuto il momento di provare la voluttà dell'assalto, della quale egli aveva tanto sentito parlare dai suoi compagni del reggimento. Notò davanti a sé un albero isolato. Quest'albero da principio gli stava davanti, a metà di quella linea che pareva così terribile. Ma ecco che la linea era stata oltrepassata, e non soltanto non c'era nulla di terribile, ma tutto si faceva più allegro e più animato. «Oh, come lo colpirò!» pensava Rostov, stringendo l'impugnatura della sciabola. Tutto a un tratto lo squadrone fu colpito come da una grossa scopa. Rostov alzò la sciabola, preparandosi a ferire. Ma in quel momento il soldato Nikitenko, che gli galoppava davanti, si allontanò da lui. E Rostov sentì, come in sogno, che continuava a volare innanzi con una rapidità straordinaria, eppure restava sempre allo stesso punto. Di dietro, un ussero di sua conoscenza, Bondarciuk, galoppò verso di lui e lo guardò con ira. Il cavallo di Bondarciuk si impennò, poi lo oltrepassò di galoppo. «Perché mai non posso muovermi? Sono caduto. Mi hanno ucciso!» In un istante si domandò e si rispose Rostov. Già era solo in mezzo al campo. Invece delle schiene in movimento dei cavalli e degli usseri, egli si vedeva intorno la terra immobile e le stoppie. Sotto di lui c'era del sangue tiepido. «No, sono ferito. E il mio cavallo è ucciso.» Dalla testa del cavallo scorreva sangue. Il cavallo si dibatteva e non si poteva rialzare. Rostov voleva sollevarsi, ma ricadde anche lui. La taschetta gli si impigliò nella sella. Egli non sapeva dove erano i nostri, dove i francesi. Non c'era nessuno lì intorno. Liberata la gamba, si alzò. Dove? Da quale parte era adesso quella linea che separava così nettamente i due eserciti? Si domandava, senza poter rispondere. Non mi sarà capitato qualcosa di brutto? Avvengono di questi casi? E che bisogna fare in circostanze simili? Si domandò mettendosi in piedi, e in quel momento sentì che qualche cosa di estraneo gli pendeva al braccio sinistro aggranchito. La sua mano gli pareva quella di un altro. Si guardò la mano, cercandovi attentamente del sangue. «Ah, ecco gente», pensò con gioia, vedendo alcuni uomini che correvano verso di lui. «Mi aiuteranno». Davanti a quegli uomini correva uno in cappotto turchino, col viso nero, abbronzato e un naso adunco. Due altri correvano dietro a lui, e poi molti altri. Uno di essi disse qualcosa di strano, non in russo. Fra quelli che seguivano, vestiti allo stesso modo e con lo stesso sciacquò, c'era un ussero russo. Lo tenevano per le braccia. Dietro a lui conducevano il suo cavallo. «È certo uno dei nostri prigioniero. Sì, ma prenderanno anche me. Chi sono costoro?» pensava Rostov, non credendo ai suoi occhi. «Sono forse francesi?» Egli guardava i francesi che si avvicinavano. E nonostante che un secondo prima galoppasse soltanto per attaccare quei francesi e massacrarli, ora la loro vicinanza gli pareva una cosa terribile, al punto da non credere ai suoi occhi. «Chi sono? Perché corrono? Possibile che sia verso di me? Che corrano addosso a me? E perché? Per uccidermi? Me? Me? A cui tutti vogliono bene?» Si ricordò dell'amore della madre, della famiglia, degli amici per lui, e l'intenzione dei nemici di ucciderlo gli parve inammissibile. «Ma mi potrebbero anche ammazzare.» Restò più di 10 secondi senza muoversi di lì e senza capire la sua situazione. Il francese col naso adunco, il primo, gli era già così vicino che si distingueva l'espressione del suo viso. E l'infiammata, inconsueta fisonomia di quest'uomo che, con la sua baionetta inastata, ritenendo il respiro, correva agilmente verso di lui, spaventò Rostov. Egli prese la pistola, ma invece di sparare la gettò sul francese e corse verso i cespugli con quanta forza aveva. Un invincibile sentimento di paura per la sua vita giovane e felice dominava tutto l'essere suo. Saltando rapidamente attraverso i limiti dei campi, con quella stessa velocità con la quale correva quando giocava a correre, volava per la campagna, voltando ogni tanto il suo viso pallido, buono, giovanile, e il freddo del terrore gli serpeggiava per la schiena. «No, meglio non guardare», pensò, ma arrivato presso i cespugli si voltò ancora una volta. I francesi avevano perduto terreno e, anzi, nel momento in cui egli guardava, il primo di essi lasciò il trotto per il passo e, voltandosi, urlò qualcosa al compagno che veniva dietro. Rostov si fermò. «Non può essere», pensò. «Non è possibile che mi vogliano uccidere». E intanto il suo braccio sinistro era pesante come se vi fosse attaccato un peso di 2 libbre. Non poteva correre più. Il francese si fermò anche lui e prese la mira. Rostov socchiuse gli occhi e si chinò. Una palla, un'altra palla, passarono ronzando su di lui. Egli raccolse le ultime forze, si prese la mano sinistra nella destra e corse fino ai cespugli. Nei cespugli erano i tiratori russi. Il vento s'era calmato. Nuvole nere si erano addensate a poca altezza sul luogo della battaglia, confondendosi all'orizzonte col fumo della polvere. Si faceva buio, e tanto più chiaro spiccava in 2 punti il bagliore degli incendi. Il cannoneggiamento s'era fatto più debole, ma il crepitio dei fucili di dietro e a destra si udiva ancora più frequente e più vicino. Tutti davano e trasmettevano ordini, come e dove si dovesse andare, e facevano osservazioni e rimproveri. Benché fosse stato ordinato di abbandonare i feriti, molti di essi si trascinavano dietro alle truppe e pregavano d'essere messi sui cannoni. Ai piedi del monte, un pallido ussero che con un braccio si reggeva l'altro si avvicinò a Tushin e chiese di poter salire. «Capitano, per amor di Dio, sono contuso a un braccio», disse timidamente. «Per amor di Dio, non posso camminare. Per amore di Dio». Era evidente che più di una volta aveva chiesto di poter salire e dappertutto aveva ricevuto un rifiuto. Egli pregava con voce indecisa e pietosa. «Date ordine che mi facciano salire, per amore di Dio». «Fatelo salire, fatelo salire», disse Tushin. «Mettici sotto il tuo cappotto, zio», disse poi, rivolto al suo soldato favorito. «Salite, salite, caro, salite. Su, stendigli sotto il cappotto, Antonov». L'ussero era Rostov. Egli si teneva un braccio con l'altro, era pallido e la mascella inferiore gli tremava di un tremito febbrile. S'era già fatto così buio che a 10 passi era impossibile distinguere le divise dei soldati e lo scambio di fucilate cominciò a chetarsi. A un tratto, vicino, a destra, si udirono di nuovo grida e colpi di fucile. Degli spari brillavano nelle tenebre. Era l'ultimo attacco dei francesi, al quale rispondevano i soldati stabilitisi nelle case del villaggio. Nel buio pareva che scorresse un invisibile fiume oscuro, risonando di bisbigli, discorsi, rumore di ruote e scalpitio di cavalli. Più distinti di tutti gli altri suoni erano nelle tenebre della notte i lamenti e le voci dei feriti, che parevano empire di sé tutte quelle tenebre. Si accesero i fuochi e il brusio si fece più forte. Il capitano Tushin, dopo aver dato le sue disposizioni alla batteria, mandò uno dei soldati a cercare un posto di medicazione o un medico e sedette accanto al fuoco che i soldati avevano acceso sulla strada. Anche Rostov si trascinò presso il fuoco. Un tremito febbrile causato dal dolore, dal freddo e dall'umidità gli scoteva tutto il corpo. Il sonno lo vinceva irresistibilmente, ma egli non poteva addormentarsi per il tormentoso dolore nel braccio, per il quale non trovava una posizione. Ora chiudeva gli occhi, ora guardava il fuoco che gli pareva d'un rosso ardente, ora la debole curva figura di Tushin seduto alla turca accanto a lui. I grandi occhi buoni e intelligenti di Tushin lo fissavano con simpatia e compassione. Egli vedeva che Tushin con tutto il cuore avrebbe voluto aiutarlo e non poteva farlo in nessun modo. Da tutte le parti si udivano i passi e i discorsi di quelli che passavano a piedi e a cavallo e della fanteria che si disponeva all'ingiro. I suoni delle voci, dei passi, degli zoccoli dei cavalli sguazzanti nel fango, il crepitio vicino e lontano della legna si confondevano in un solo fluttuante mormorio. Ora non scorreva più come prima nel buio un fiume invisibile, ma era come quando, dopo la tempesta, un mare tenebroso si calma e tremola. Rostov guardava e ascoltava distratto quel che accadeva dinanzi e intorno a lui. Non distante dal fuoco degli artiglieri, in una capanna di contadini preparata per lui, il principe Bagration sedeva a tavola, discorrendo con alcuni comandanti di reparti riuniti presso di lui. Appoggiata in un canto c'era la bandiera presa ai francesi. Nella capanna vicina si trovava un colonnello dei dragoni francesi che era stato fatto prigioniero. Intorno a lui si affollavano, osservandolo, i nostri ufficiali. Il principe Bagration elogiava i comandanti dei reparti e li interrogava sui particolari dell'azione e sulle perdite. Il principe Andrei si sentiva triste e oppresso. Tutto ciò era così strano, così diverso da quello che aveva sperato. Chi sono? Perché fanno questo? Che vogliono? E quando finirà tutto questo? Pensava Rostov, guardando le ombre che si avvicendavano dinanzi a lui. Il dolore al braccio si faceva sempre più tormentoso. Il sonno lo vinceva. Dei cerchi rossi gli ballavano davanti agli occhi e l'impressione di quelle voci e di quei visi e il sentimento della solitudine si confondevano con la sensazione del dolore fisico. Erano loro, quei soldati, feriti e non feriti, erano loro che lo schiacciavano, che gli pesavano addosso, che gli tiravano i nervi e facevano bruciare la carne del suo braccio rotto e della sua spalla. Per liberarsi di loro, chiuse gli occhi. Per un momento si dimenticò, ma in quel breve intervallo d'oblio vide in sogno un'infinita quantità di cose. Vide la madre e la sua grande mano bianca, vide le spallucce magre di Sonia, gli occhi e il viso di Natasha e Denisov con la sua voce e i suoi baffi. Aprì gli occhi e guardò su. La cortina nera della notte era sospesa alla distanza di un braccio sul bagliore dei carboni. In quel bagliore volavano dei pulviscoli di neve. Tushin non tornava, il medico non veniva. Egli era solo. Soltanto ora un piccolo soldato sedeva nudo dall'altra parte del fuoco e scaldava il suo magro corpo giallo. «Io non sono necessario a nessuno», pensava Rostov. «Non c'è chi mi aiuti, chi mi compatisca. Eppure una volta ero a casa mia, forte, allegro, ben voluto». Egli sospirò e col sospiro involontariamente mandò un gemito. «Vi fa male?» domandò il soldatino, scotendo la sua camicia sul fuoco. Rostov non ascoltava il soldato. Guardava il nevischio che turbinava sul fuoco e si ricordava l'inverno russo nella casa tiepida, luminosa, con la pelliccia morbida, la slitta rapida, il corpo sano e tutto l'amore e le cure della famiglia. «E perché sono venuto qua?» pensava. Il giorno dopo i francesi non rinnovarono l'attacco e gli avanzi del corpo di Bagration si riunirono all'armata di Kutuzov. Guerra e pace di Lev Tolstoi. Traduzione di Enrichetta Carafa d'Andria per le edizioni Einaudi. Una lettura di Sandro Lombardi musicata da Paolo Terni, a cura di Laura Palmieri. Il terzo anello @rai.it.